Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Tagliare le tasse sul lavoro e far ripartire gli investimenti pubblici, così il governatore della Banca d'Italia nell'assemblea annuale. Cresce la disoccupazione, ma sale il numero di occupati. Raggiunto l'accordo intanto per i call center di Almaviva, salvi per ora 3.000 lavoratori. Verso il rush finale per il voto di domenica, oggi il confronto tra i candidati romani, mentre a Milano arriva Renzi, attesa la lista dell'antimafia con gli incandidabili. Rogo a Ivrea in un'azienda chimica, ci sono 14 ustionati ed è grave un vigile del fuoco, allarme inquinamento, oggi scuole chiuse. Dopo l'accoglienza la marcia verso il confine, i migranti sono usciti dalla chiesa di Ventimiglia e stanno andando alla frontiera. A Milano, dopo il nubifragio, le polemiche, il lavoro per le vasche di laminazione del Seveso doveva iniziare un anno fa e inizia solo ora. Morbillo e allarme tra Emilia Romagna e Lombardia per una sessantina di infetti, molte complicazioni tra il personale sanitario, 9 polmoniti e un caso di paralisi. 2 anni fa terrorizzò gli allevatori veneti uccidendo 40 capi di bestiame e si temeva fosse stato abbattuto. È stato catturato l'orso M4. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere qualcosa di un po' più esteso, il 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, e poi c'è il nostro canale Telegram con le anticipazioni, telegram.me/effettogiorno. In apertura, dunque, l'Assemblea Annuale della Banca d'Italia. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, un intervento come tradizione, quello del governatore della Banca d'Italia Visco, che va oltre lo stato di salute del sistema bancario e che fotografa l'andamento dell'economia del nostro paese. La ripresa è lenta, dice Visco, va fatto di più per la crescita. Partiamo allora da questo punto, Simone, ascoltiamo Visco. Nel 2015 l'economia italiana è tornata a crescere per la prima volta dall'avvio della crisi del debito sovrano. Vi sono chiari segnali positivi, soprattutto per la domanda interna. L'attività economica rimane però lontana dai livelli precedenti alla crisi e soggetta alle stesse incognite che gravano sull'economia globale ed europea. Cosa fare allora? Dove intervenire? Riforme, investimenti pubblici e cuneo fiscale, la ricetta di Visco. Sentiamo questo passaggio. Per sostenere una ripresa più rapida e duratura è necessario il rilancio di investimenti pubblici mirati, anche infrastrutture immateriali a lungo differiti. Sono importanti un'ulteriore riduzione del cuneo fiscale gravante sul lavoro, il rafforzamento di incentivi per l'innovazione, il sostegno ai redditi dei meno abbienti, particolarmente colpiti dalla crisi. La disoccupazione resta troppo alta, dice il governatore, il suo progressivo riassorbimento spiega è essenziale per offrire adeguate condizioni di vita ai cittadini e per riportare l'inflazione su valori in linea con la stabilità dei prezzi. Capitolo riforme, le priorità secondo Via Nazionale sono rimozione dell'illegalità, ridare efficienza pubblica amministrazione e giustizia civile. Quanto alle sofferenze bancarie, aggiunge Visco, la massa dei crediti deteriorati delle banche italiane deve essere presa in seria considerazione senza sovrastimare però l'entità del problema. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, e noi restiamo all'Assemblea della Banca d'Italia per fare un punto invece sulle reazioni con Giorgio Stamatopoulos. Giorgio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Simone. Sì, reazioni positive alla relazione di Visco, non solo dal settore bancario e della finanza, ma anche dal mondo delle imprese, con il neopresidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che ha sottolineato molti punti di convergenza nella relazione e ha auspicato una politica economica più espansiva. Ma sentiamolo. È un dovere di tutti noi, di tutti i cittadini italiani, a partire da noi industriali, occorre crescere all'interno delle fabbriche e all'esterno delle fabbriche. Un grande rilancio della politica economica coerente alla politica monetaria espansiva della BCE, sia in chiave europea che in chiave italiana. Ognuno deve fare la sua parte, noi ci metteremo tutto per fare la nostra. Anche i sindacati sono intervenuti sulle parole del governatore di Banca Italia. La Camusso CGIL ha apprezzato l'invito del governatore di Banca Italia a puntare su investimenti pubblici per rilanciare l'economia, mentre Carmelo Barbagallo, siamo in casa della UIL, si è soffermato sul dato Istat di oggi, ad aprile, lo sapete, disoccupazione che segna un più 11,7%, invitando ad intervenire sul capitolo del cuneo fiscale citato da Ignazio Visco nella sua relazione in modo diverso. Sentiamo. Ma gli ultimi dati di stamattina sono sempre contraddittori. Ancora, mettiamola così, non si è fatto tutto quello che può essere fatto per ridare prospettive occupazionali al paese e in particolare ai giovani del nostro paese. Il problema è che spesso il cuneo fiscale viene promesso ai lavoratori, viene dato alle imprese, ma il lavoratore continua a essere promesso. Spero che prima o poi verrà anche dato. E per il momento da Palazzo Cocca è tutto. Ti ringrazio, grazie anche a Giorgio Stamatopoulos. Avete sentito Carmelo Barbagallo che citava i dati sull'occupazione diffusi questa mattina. Ebbene, sentiamo di cosa si tratta. Torna a salire il tasso di disoccupazione ad aprile, ma in contemporanea si registra una crescita dell'occupazione. Lo rileva l'Istat, sottolineando che il dato si spiega con l'aumento della partecipazione al mercato del lavoro. Sembra un paradosso, ma è una buona notizia, perché il mese scorso i disoccupati sono certo aumentati. Il tasso di disoccupazione è salito all'11,7% dall'11,5% di marzo, ma solo perché sono calati gli inattivi, cioè coloro che non lavorano e neppure cercano un'occupazione. A far salire il tasso è stato quindi l'ampliamento della forza di lavoro, ma risalta il fatto che il 50% di chi ha cercato un impiego lo ha effettivamente trovato. Ad aprile, infatti, i nuovi occupati sono stati 51.000 su marzo, trainati dalla crescita dell'occupazione degli over 50, e i disoccupati 50.000 in più, mentre gli inattivi diminuiscono, sono 113.000 in meno. Ad aprile cresce anche la disoccupazione giovanile, che risale al 36,9%, ma nell'ultimo mese, anche tra i 15 e i 24 anni, cresce di 0,2 punti percentuali il tasso di occupazione, mentre diminuisce di 0,4 punti quello di inattività. Rispetto allo scorso anno è ancora più evidente. Negli ultimi 12 mesi gli occupati sono 215.000 in più, i disoccupati sono 93.000 in meno e gli inattivi sono scesi di 292.000 unità. Insomma, dopo lo stop di inizio anno, dovuto soprattutto al taglio degli incentivi delle assunzioni, una risalita. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Ed è stato raggiunto l'accordo per il gruppo call center di Almaviva. Abbiamo parlato con il vice ministro dello sviluppo economico Teresa Bellanova per farci raccontare che cosa prevede. Funziona che l'azienda si è impegnata su richiesta che il governo aveva fatto dall'inizio di questa vicenda a ritirare la procedura di licenziamento per 3.000 persone. Abbiamo prorogato i contratti di solidarietà per 6 mesi fino alla fine dell'anno e altri 12 mesi di cassa integrazione. In questi 18 mesi l'azienda lavorerà per cercare nuove commesse e l'impegno è quello di ridurre del 50% le ore di cassa integrazione e quindi arrivare a massimo 20% negli stabilimenti di Roma, Napoli e Palermo. Quindi questo per quanto riguarda i 18 mesi. Nel caso l'azienda non riuscisse a trovare queste nuove commesse, avete già una qualche idea di come procedere? Ci sono delle ipotesi appunto per quanto riguarda anche le politiche attive del lavoro per questi 3.000 lavoratori? L'azienda adesso sta partecipando a bandi, noi abbiamo attivato l'Osservatorio Nazionale sui call center che sarà riunito il 17 di giugno e noi abbiamo chiesto a tutte le grandi aziende committenti di rispettare il codice degli appalti, di non fare gare al massimo ribasso, costringendo in questo modo i call center a delocalizzare le produzioni nei paesi extra Unione Europea. La vicenda della ragazza uccisa a Roma, il servizio. È in programma per oggi la convalida del fermo per Vincenzo Paduano, il 27enne accusato di aver ucciso l'ex fidanzata Sara di Pietrantonio. Per gli inquirenti Paduano avrebbe premeditato il delitto, gettando alcol sul corpo della 22enne per poi darle fuoco con una sigaretta. Dopo un interrogatorio durato 8 ore, l'uomo ha confessato ad incastrarlo diversi elementi, tra cui il GPS dell'auto, immagini video e testimonianze. In questura è stato ascoltato anche un ragazzo 20enne che ha ammesso di aver visto quella ragazza bionda sbracciarsi, litigare, ma di non aver capito che stesse chiedendo aiuto e per questo di non essersi fermato. Una testimonianza molto simile a quella resa da un 18enne che stava accompagnando la fidanzata a casa. Il procuratore aggiunto di Roma, Maria Monteleone, ieri ha lanciato l'appello: se vedete una ragazza di notte in una strada isolata che chiede aiuto, fermatevi o chiamate la polizia. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Amministrativa in primo piano, occhi puntati su Roma in queste ore. A Roma è il giorno dell'ultimo faccia a faccia televisivo prima del voto di domenica. Gli sfidanti in corsa per il Campidoglio si affronteranno in serata negli studi di Sky e per la prima volta al confronto parteciperà anche la candidata sindaco del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi. Al suo fianco ci saranno Roberto Giachetti del Partito Democratico, Giorgia Meloni, candidata di Fratelli d'Italia e Lega, l'imprenditore Alfio Marchini, sostenuto anche da Forza Italia, e Stefano Fassina di Sinistra Italiana. L'appuntamento arriva alla conclusione di una campagna elettorale caratterizzata più dalle polemiche che dal confronto sulle soluzioni ai problemi della capitale, per ultima quella sulle Olimpiadi. Stamattina il presidente del CONI, Malagò, ha definito umilianti, offensive e incomprensibili le affermazioni di Virginia Raggi, che nei giorni scorsi aveva giudicato criminale il pensiero di poter ospitare i giochi del 2024 a Roma, visto il debito accumulato dalla capitale. Non mi riferivo alle Olimpiadi, criminale e disinteressarsi ai problemi reali dei romani pensando solo alle grandi opere, la replica della candidata 5 Stelle. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. A Milano arriva invece Matteo Renzi per sostenere la candidatura di Beppe Sala. Sta seguendo l'iniziativa Raffaella Calandra. Raffaella. Sì, Simone, buongiorno. Se va avanti Milano, va avanti l'Italia. Matteo Renzi chiude la mattinata milanese con un abbraccio al sindaco uscente e a chi si candida a succederlo. Il premier arriva qui alla Barrios, nel centro di Don Rigoldi, periferia riqualificata della città, per dare una spinta sia a Beppe Sala per il prossimo voto del 5 giugno, ma anche al suo governo in vista della sfida del referendum di ottobre. Siamo tutti contro di me perché se vinciamo uno su tre va a casa, annuncia il premier, mandando un messaggio sia fuori che dentro il PD. Rivendica le riforme fatte, il premier rivendica i dati di oggi sul lavoro, quelli dell'Istat, dice ma possiamo fare ancora di più, assicura, e poi parlando di Milano dice alla squadra del centrosinistra: questo è un calcio di rigore che non dovete sbagliare. Tanti i temi toccati, soprattutto di politica, dalla sicurezza all'immigrazione, in cui il premier è tornato a ribadire la sua linea della accoglienza nei confronti dei migranti, perché è qui che ha detto che si gioca la sfida della paura, ma soprattutto questa voleva essere la volata finale per il candidato del centro-sinistra in vista del voto di domenica. Simone. E grazie Raffaella Calandra per questo aggiornamento. Oggi tra l'altro arriverà la lista di coloro che non hanno passato il vaglio della commissione antimafia. A questo è dedicata all'analisi di Daniele Biacchessi. La commissione antimafia presieduta da Rosi Bindi è pronta a stilare il verdetto sui cosiddetti impresentabili, cioè su quei candidati la cui immagine di etica, trasparenza, pulizia è ormai intorno allo zero. L'organismo parlamentare ha esaminato oltre 3.000 candidati, concentrati tra Roma e i comuni di Badolato, San Luca, Platì, Scalea, Ricadi, San Sostene in Calabria, Sant'Oreste e Morlupo nel Lazio, Battipaglia, Trento, La Ducente e Villa di Briano in Campania. Da quello che filtra dalle stanze di San Macuto, i problemi maggiori si sarebbero verificati a Roma e a Battipaglia. Nella capitale in particolare permangono due nomi in due liste di rinviati a giudizio da altre procure, che rischiano una condanna anche per falsa autocertificazione. Il richiamo dell'antimafia è rivolto anche al comune di Platì, più volte sciolto per mafia, dove è impossibile oggi definire impresentabili anche coloro che sono imparentati con boss e ndranghetisti ma non risultano coinvolti in inchieste. Una menzione speciale positiva va invece al prefetto di Caserta, che ha tolto dalle liste 19 persone che avevano fatto dichiarazioni mendaci sia sulla loro compatibilità con la legge Severino che sui carichi pendenti. Al di là della relazione che sarà presentata oggi pomeriggio, un dato chiaro emerge: gli strumenti attualmente a disposizione di investigatori e dei commissari non riescono assolutamente a mettere a riparo il voto locale dalle infiltrazioni mafiose e contenere la corruzione. Il cammino dunque resta ancora in salita. Il fronte dell'immigrazione. Circa un centinaio di migranti hanno lasciato l'oratorio della parrocchia di San Nicola a Ventimiglia, sono usciti per strada e stanno marciando verso il valico di frontiera di Ponte San Ludovico. Tutto questo dopo che ieri sera 12 attivisti sono stati prelevati dalla polizia all'interno dei locali della parrocchia messi a disposizione da Don Francesco e trasferiti in commissariato, dove sono stati identificati. Non è al momento chiara la ragione. Secondo la polizia avrebbero danneggiato un mezzo della Croce Rossa. Dall'altra parte del paese, a Catania, intanto, la polizia ha fermato 16 presunti scafisti che sarebbero stati alla guida di un gommone sul quale trasportavano circa 150 migranti. Sono stati identificati perché erano i soli a bordo ad indossare giubbotti di salvataggio. I migranti avevano pagato per la traversata una somma variabile fra i 500 e i 1.000 euro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi inizieremo il nostro consueto giro per l'Italia, andando innanzitutto tra Emilia-Romagna e Lombardia, dove c'è un problema che riguarda il morbillo, una piccola epidemia, almeno per il momento, partita da tre campi rom. Il tema è sempre quello delle poche vaccinazioni che si fanno. Tendiamo a pensare al morbillo come una malattia semplicemente esantematica o dei bambini, mentre invece può portare complicazioni, in alcuni casi addirittura la morte. Considerate che ci sono 9 casi di polmonite, di cui 3 degenerati in insufficienza respiratoria acuta e addirittura una sindrome di Guillain-Barré, ossia una paralisi. Ci sono molte persone ricoverate, di queste 67 che sono state contagiate. Poi andremo proprio a Ventimiglia per parlare col sindaco, per capire com'è la situazione dal lato di questa marcia che si sta avvicinando al confine. Torneremo a parlare più avanti di Pantelleria, perché siamo al quarto giorno di incendio consecutivo, e poi ci occuperemo, un tema un po' più leggero, è stato catturato a 2 anni da quella che sembrava una grande emergenza, l'orso M4. Traffico. Smau Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'assemblea annuale della Banca d'Italia, dei dati sulla disoccupazione, delle amministrative, abbiamo parlato di immigrazione, adesso ci occupiamo di morbillo. È una notizia che è stata diffusa ieri dall'ANSA e ripresa oggi da qualche giornale e che riguarda la Lombardia e l'Emilia Romagna, più o meno a cavallo tra le due regioni, e riguarda un focolaio che c'è stato nel corso di quest'inverno e che ha destato qualche preoccupazione. 67 casi in totale, tra questi alcuni sono stati a Piacenza. Abbiamo in linea il direttore sanitario della USL di Piacenza, Guido Pedrazzini. Buongiorno dottor Pedrazzini, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, quanti casi ci sono stati da voi? Tra l'altro mi sembra di aver capito che il problema è esaurito, almeno per il momento e sperabilmente, no? Sì, sì, fortunatamente in questo momento non ci sono altri casi. Sono successi alcuni casi a marzo e hanno interessato 7 persone, di cui una persona, una malata che era stata poi ricoverata presso uno dei nostri ospedali e che poi ha diffuso il virus ad alcuni operatori che hanno assistito la paziente. Sì, e lo vogliamo ricordare, Pedrazzini, il morbillo noi tendiamo, e l'abbiamo già detto prima della pausa del traffico, a interpretarlo come una malattia esantematica, una malattia dei bambini, perché come dire, i casi ormai sono sempre più rari. In realtà è una malattia che può essere estremamente pericolosa. È una malattia che ha delle complicanze che possono essere particolari anche nell'adulto, e pertanto è necessario, è opportuno avere un'adeguata protezione. Si tratta di probabilità di incidenti, di eventi avversi gravi come la mortalità su un caso ogni 1.000-2.000 casi di malattia, piuttosto che patologie acute o croniche a carico del sistema nervoso centrale, come l'encefalite o la panencefalite sclerosante. Sì, ci sono stati, per esempio, nel caso di questo focolaio, sui 67 casi complessivi tra Emilia Romagna e Lombardia, come si diceva prima, anche dei casi di polmonite che poi è sfociata in un'insufficienza respiratoria acuta. E qui è un caso di un tipo particolare di paralisi, quindi le conseguenze possono essere molto gravi. Adesso vorrei capire, siete tranquilli o c'è un problema che poi è il problema più generale di copertura vaccinale? Riguardo all'evento acuto siamo tranquilli, dopodiché ancora una volta crediamo che ci sia stato un campanello d'allarme che in qualche maniera deve in qualche modo sollevare delle attenzioni e delle sensibilità che si sono un po' perse anche all'interno della comunità degli operatori sanitari. Sì, questo è anche il punto interessante, perché il fatto che siano stati contagiati degli operatori sanitari vuol dire che non avevano copertura vaccinale. non avevano copertura vaccinale quando un operatore sanitario viene assunto, viene analizzato e viene proposta la vaccinazione rispetto alla patologia per cui è scoperto. Anche in ambito sanitario, se un tempo vi era più sensibilità, per cui vi era un maggior ricorso alla vaccinazione, di questi tempi c'è stata così una sorta di minore attenzione. Abbiamo anche utilizzato l'occasione per rilanciare in ambito degli operatori sanitari una campagna vaccinale proprio per una doppia obiettivo: da un lato quello di proteggere gli operatori sanitari, ma anche quello di offrire una continuità di servizio in caso di ricoveri di pazienti potenzialmente infettanti, evitando la possibilità agli operatori di ammalarsi. In questo caso la malattia di alcuni operatori ha portato poi a ridurre la disponibilità di posti letto nell'ospedale che è stato colpito, per cui per noi c'è stato anche un difetto transitorio di servizio. La ringrazio, grazie a Guido Pedrazzini, direttore sanitario della USL di Piacenza. Enrico Ioculano, sindaco di Ventimiglia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, so che stamattina è stato là dove è partita questa marcia dei migranti che si trovavano nella chiesa e che hanno deciso di andare verso il confine. Ci dà un quadro della situazione al momento, per quanto ne sa? So che a questo punto è tornato in municipio, come anche normale, insomma, però se ha un'idea di quello che sta succedendo. Allora, guardi, fino a 10 minuti fa erano presenti all'incirca una cinquantina di persone ferme sulla strada, bloccate da un blindato della polizia, insomma, in attesa di capire quelli che potevano essere gli sviluppi. Questa mattina hanno improvvisato in sostanza una marcia, alcuni di quelli che erano presenti nella chiesa, non tutti, perché molti di questi sono andati via, non sappiamo adesso dove, però insomma una cinquantina di queste persone hanno deciso di affrontare questo percorso. È evidente comunque che non è un'iniziativa loro, ma che siano in qualche modo strumentalizzati dai cosiddetti solidali. Quello che dice lei, che sono i No Borders, cioè questa associazione che si prefigge di aiutare gli immigrati che sono sui confini, che li hanno spinti a fare questa operazione, sostiene lei? Beh, guardi, se uno attraversa tutta l'Italia per andare in Francia, senz'altro non lo fa con una marcia portata di gruppo che ha l'intendimento di arrivare al confine, avere visibilità e fare, passi il termine, un po' di casino. Evidentemente se vuole andare in Francia lo fa a piccoli gruppi e in modo più nascosto possibile, e tenta di affrontare, di transitare, sì, passare il valico in altri modi. Qua c'è la mano di qualcun altro, non sono loro. Senta, Ioculano, tra l'altro, da quel che ho capito, giusto per spiegare anche meglio agli ascoltatori di che persone stiamo parlando, di chi sono questi migranti, queste sono persone che, da quel che ho capito, hanno rifiutato di farsi identificare perché vogliono raggiungere la Francia per, non so, andare a trovare dei parenti piuttosto che qualsiasi altra cosa, perché ritengono di non voler rimanere in Italia, no? Cinquantina qua in particolare non glielo saprei dire, però di quelli che erano su Creto del Fiume qualche giorno fa, una parte comunque erano identificati, però nonostante siano identificati, se la loro volontà è quella di provarci, ci provano, non sono persone in stato di fermo, voglio dire, quindi hanno margine di libertà per potersi muovere. Una parte di questi non sono identificati, non hanno intenzione di farsi identificare, a maggior ragione azioni di questo tipo è evidente che non collimano con questa volontà, perché è ovvio che quando fai una marcia di questo tipo a un certo punto verrai fermato e probabilmente verrai anche identificato immediatamente dopo. Sì. Sindaco, lei come si sente? Se non sbaglio, lei si era sospeso? O mi sbaglio? Sì, mi ero autosospeso dal Partito Democratico. Dal Partito Democratico. E non sente ancora supporto dal suo partito? Ma sì, guardi, in questi giorni in particolar modo c'è stato un sostegno, poi al di là delle posizioni del partito c'era più che altro una volontà, insomma, di aiutare, fare in qualche modo pressione sul ministero perché si adottassero le soluzioni più idonee per la città prima di tutto. Quindi devo dare atto al partito che fino ad oggi è l'unico soggetto politico sta provando quindi lei ha sospeso la sospensione, per così dire? No, giusto, diciamo che abbiamo avuto degli incontri, ma prima si cerca di metterci una pezza, la soluzione proprio amministrativa della città, poi del partito si parlerà, non è quello. Si parlerà dopo. Va bene, la ringrazio, grazie Enrico Iuculano, sindaco di Ventimiglia, per essere stato con noi, le auguro buona giornata. Stefano Filacorda, e ci spostiamo da Ventimiglia alla provincia di Udine, ricercatore di studi fauna selvatica dell'Università di Udine, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Argomento un po' più leggero. Allora, due anni fa ne avevamo parlato a lungo perché aveva scatenato il panico negli allevatori di un'area del Veneto, parliamo dell'orso M4 che aveva divorato o ucciso una quarantina di capi di bestiame. Oggi è stato catturato e lei era nella squadra, no? Sì, sono il coordinatore della squadra di cattura che fa capo all'Università di Udine. Sì. Siete sicuri che sia lui? Beh, allora siamo sicuri al 90%, nel senso che lo scorso anno questo animale che era M4, che l'abbiamo identificato geneticamente, l'abbiamo seguito con le fototrappole, era in quella zona e poi è ricomparso lo stesso animale con quelle caratteristiche sia di pelo e sia di comportamento. L'unico piccolo dubbio potrebbe essere che sia giunto nello stesso posto suo fratello M3, che ha un pelo ancora più chiaro, però secondo me... Sì, solo le analisi genetiche lo confermeranno, ma è molto probabile che sia M4. Quindi una volta catturato che cosa avete fatto? Gli avete attaccato una sorta di collare per seguirne i movimenti? Sì, noi quando praticamente, questa è ormai la sesta cattura di orsi che è elevato come numero in una regione come il Friuli che ha pochi orsi, gli predisponiamo un collare satellitare con il quale seguiamo gli animali, insomma, per tutta la durata della vita del collare o purtroppo della vita dell'orso, perché molte volte l'orso muore prima della fine del collare. Prima della fine del collare. Lei dice appunto Friuli, in realtà poi gli orsi occupano dei territori molto vasti, no? La testimonianza è M4, no? Che sì. È partito da Trento e poi è andato nella zona del Veneto e poi lo scorso anno all'inizio di quest'anno è in Friuli, quindi territori enormi, anche sì. Perché poi ogni anno in alcuni casi frequentano dei luoghi diversi e poi all'interno dell'anno fanno grandi movimenti. Senta Filacorda, come si può limitare questo problema dell'attacco agli armenti? Mi si scusi l'espressione un po' desueta. Ma innanzitutto comunque bisogna dire una cosa a favore di M4, che lo scorso anno quando è giunto in Carnia, in Friuli, non ha attaccato nessun tipo di allevamento bovino, ovino, caprino. Si è dedicato solo agli alveari, comunque facendo un po' di danni. Quindi ha cambiato un po' la dieta e questo è interessante anche perché è minore l'impatto, anche emotivo, quando è certo. Ma le soluzioni, ovviamente, l'orso può cambiare con l'età l'attitudine ad attaccare gli armenti. Poi ci sono tutta una serie di tecniche, dalle recinzioni elettriche all'uso dei cani, alle operazioni di dissuasione vere e proprie, quindi l'intervento delle persone che possono fargli paura, che non con i fucili con i cani, fucili con proiettili in gomma. Lei lo sa che gli allevatori lo vorrebbero abbattere? Io in realtà sono uno zootecnico che studio gli orsi, quindi sono molto vicino agli allevatori e mi creda, tante volte... ci sono allevatori che vogliono abbattere gli orsi, ma tante volte gli allevatori sono molto più sensibili di altre persone e vengono a loro volta strumentalizzati. Questa è la mia sensazione. La sua sensazione. Bene, vedremo come andrà e se M4, e speriamo a questo punto che non cambi dieta, insomma, che continui a nutrirsi, come dire, di miele dagli alveari. Grazie Stefano Filacorda, ricercatore studi fauna selvatica dell'Università di Udine. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire come sempre che cosa succede sui mercati e poi nella seconda parte della trasmissione torniamo a Pantelleria. Quarto giorno di incendi, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno e notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli, l'assemblea annuale della Banca d'Italia in primo piano con il governatore Ignazio Fisco che dice che bisogna tagliare le tasse sul lavoro e far ripartire gli investimenti pubblici. Intanto arrivano i dati sulla disoccupazione, cresce all'11,7% ma sale il numero di occupati e di persone in cerca di lavoro, mentre è stato raggiunto oggi l'accordo per i call center di Almaviva, salvi per ora 3.000 lavoratori. Si va verso il rush finale per il voto di domenica. Oggi il confronto televisivo tra i candidati romani, quelli principali, mentre a Milano arriva Renzi ed è attesa per oggi la lista dell'antimafia con gli impresentabili. Dopo l'accoglienza, la marcia al confine, l'avete sentito, i migranti sono usciti dalla chiesa di Ventimiglia e stanno andando alla frontiera, almeno alcuni di loro. Il morbillo, c'è stato allarme quest'inverno tra Emilia e Lombardia per una 60 di infetti, molte complicazioni tra il personale sanitario, 9 polmoniti e un caso di paralisi. La borsa. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta... Effetto giorno. E eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Ieri sera 3 esplosioni e un violento incendio hanno distrutto la Darkem di Scarmagno, un'azienda chimica del torinese a 2 passi dall'ex Olivetti. Il bilancio complessivo è di 14 feriti, di cui la maggior parte tra i soccorritori. Ancora sconosciute le cause, lo spiega l'ispettore antincendi dei Vigili del Fuoco di Torino, Matteo Partipilo, al microfono di Alessandra Iannuzzi. Sono in corso le indagini da parte del nucleo investigativo territoriale di Torino e acquisiti tutti gli elementi, le campionature, si faranno poi delle ipotesi, al momento non è possibile farle. E attualmente le fiamme sono state domate del tutto o ci sono ancora squadre in azione? Ci sono squadre qui posizionate sul posto, gli incendi sono totalmente spenti, abbiamo delle lance che funzionano allo scopo unicamente di abbassare un po' i vapori di quelle che possono essere sostanze magari allo stato di riforme che gravitano attorno all'area. Il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole, è possibile stimare già i danni ambientali? È stata una cosa, credo, generata dal punto di vista, diciamo, dell'immediatezza dell'evento. Non credo che si possa protrarre, diciamo, la chiusura delle scuole, ma questa è la facoltà del sindaco. Non c'è un pericolo, perlomeno conclamato, e comunque è l'ARPA che deve fare le proprie considerazioni. Anche l'ARPA fa delle campionature. E a proposito di incendi, andiamo a Pantelleria. Saluto Salvatore Gabriele, che è direttore di Pantelleria Internet, un piccolo, come dire, un piccolo organo di informazione su internet dedicato a Pantelleria. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, riesce a darci un quadro della situazione al momento? Vi parlo proprio, ero venuto a fare qualche foto sulla Montagna Grande, che era il polmone dell'isola e che praticamente non esiste più davvero. È bruciato tutto, nel giro di 2 giorni sono bruciati gli alberi di Leccio, il pino marittimo, il pino di Aleppo e poi tutte le specie del sottobosco che erano almeno 800 catalogate e non esiste più niente, esiste soltanto la cenere. E sono andati perduti decine e decine di chilometri di sentieri che erano, diciamo, necessari per fare turismo fuori stagione. La gente veniva qua pure a passeggiare, non solo per il mare, e Pantelleria il mare lo poteva dare come un optional, perché ha un paesaggio fatto di muretti, di boschi, aveva, devo dire. Quindi è tutto devastato sostanzialmente? E gran parte, guarda, l'80% dei boschi è stato distrutto in 3 giorni, è un incendio che è scoppiato sabato pomeriggio, un incendio chiaramente doloso, dato in più punti. In località Monastero, lungo il sentiero che porta alla grotta del Bagnasciutto, e da qui la sera si è alzato il maestrale e non si è potuto intervenire con i mezzi meccanici. E i Canadair, malgrado siano arrivati subito, chiaramente al buio non potevano operare. Non potevano operare. E non escludo che chi ha deciso di appiccare l'incendio abbia, non so, sapesse che stava per arrivare il maestrale, no? Ecco. Sì, ormai su internet è facile vederlo dai siti internet. Sembra, non è un'opinione mia, ma un'opinione di molti, che sia stato tutto premeditato, persino l'orario. Ma perché? Qual è la motivazione che ci sarebbe dietro questo gesto? Qual è? Io non lo so, ti posso dare una serie di motivazioni. Sì, ci può essere l'imbecille, ci può essere il piromane, ci può essere un forestale che l'ha fatto perché ritardavano ad assumere quest'anno gente della forestale, e ci può essere poi, ed è una cosa, una tesi molto ma molto accreditata, il fatto che il sindaco, questo sindaco mio omonimo tra l'altro, sì, aveva cominciato a riparlare di un parco terrestre a Pantelleria. Questa cosa era invisa a molti, tant'è vero che questo sindaco nel 2010 aveva perso le elezioni proprio su questo tema. Che cosa vuol dire? Cosa si intende per un parco terrestre a Pantelleria? E che problemi comporterebbe eventualmente per qualcuno? Ricordiamo che Pantelleria è Pantelleria è un'isola meravigliosa che però ha 7.700 abitanti, quindi vorrei anche, ma probabilmente anche il responsabile non sarebbe, se fosse così non sarà difficile da identificare. Detto ciò, che cosa vuol dire parco terrestre e che problema crea eventualmente a qualcuno? Innanzitutto il parco deve essere fatto perché qua ci sono ben 12 vincoli, dal vincolo paesaggistico al vincolo idrogeologico, eccetera. Il discorso era di abolire tutti questi vincoli e fare un regolamento dentro un parco che poi coincideva esattamente con la riserva naturale. Riserva naturale che è stata istituita ma non è stata mai regolamentata, per cui la gente ha visto soltanto di questa riserva svantaggi, cioè dire divieti e nessun vantaggio, perché il regolamento non era stato mai fatto. Il sindaco pensava, e molti pensavano, che col parco si potesse regolamentare, diciamo, con un solo vincolo tutta l'isola. E la settimana scorsa era stato invitato a Cinque Terre da questi del parco di Cinque Terre, e poi lui graziosamente aveva ricambiato l'invito ed erano venuti qua questi di Cinque Terre. Sì, c'è stata una Cinque Terre, certo. Li ha invitati in un'assemblea pubblica per spiegare i vantaggi e gli svantaggi di questo parco, no? Sì. E lì al solito è spuntata fuori, diciamo, questa opposizione cieca a questo parco. Non si capisce neanche perché non... Non si capiscono le ragioni. La preoccupazione dei divieti. Sì. Sì. Ora io non voglio dire che è stato questo, certo, però il fatto che si sia verificato subito dopo, diciamo, potrebbe essere indicativo. Infine ti chiedo, le fiamme sono ancora attive oppure no? E fino a 5 minuti fa sulla Montagna Grande, dove ero io, abbiamo dovuto allontanarci, c'erano ancora due canadair. Perché ci sono i focolai, no? Pericolosi. E poi il pericolo è un'altra cosa a cui molto non pensano, ma me l'hanno insegnato i forestali. Sono migliaia di topi e conigli che, poveracci, si mettono dentro le loro tane, arriva il fuoco, escono, gli brucia il pelo e, scappando, poi vanno a morire in un posto e riaccendono le fiamme. Sì, di sera sembrano, mi dicevano, palle infuocate che sfrecciano, diciamo. Perché gli brucia il pelo, chiaramente corrono. Allora io ti ringrazio, grazie a Salvatore Gabriele di Pantelleria Internet per averci aiutato a raccontare quello che sta succedendo in questi minuti sull'isola. Torniamo solo brevemente a Roma per una notizia prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, poi il nostro Mario Platero. La Procura di Roma ha chiesto al GIP la convalida del fermo di Vincenzo Paduano, l'uomo che ha confessato di aver ucciso l'ex fidanzata Sara Pietrantonio. La PM sollecita anche l'emissione dell'ordine di custodia cautelare in carcere per omicidio volontario premeditato e stalking. L'udienza di convalida dovrebbe essere domani o venerdì prossimo. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.